La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 di Montecitorio. È lite nel governo sull'aumento dell'IVA e sullo stop all'IMU. Il vice premier Angelino Alfano promette da parte del PDL di battersi, ma il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato interviene e nega che ci sia, che sia possibile scongiurare l'aumento dell'IVA. Allora ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666. Iniziamo proprio da Zanonato, sentiamo che ha detto. Lo avremo senza che il governo faccia nulla, perché non è che dobbiamo deciderlo, è stato deciso prima. A raccontare che si può fare una cosa che oggi risulta praticamente impossibile, si fa presto, ma poi dopo un po' si viene smentiti. Possibile scongiurare l'aumento dell'IVA, ma il PDL insorge, ci batteremo perché venga mantenuta la promessa di ridurre le tasse e abbattere l'IMU. E allora sentiamo quanto ha detto il capogruppo alla Camera Renato Brunetta. Le risorse si troveranno, l'IVA non aumenterà da luglio, così come la riforma complessiva dell'imposizione sugli immobili consentirà di eliminare l'IMU sulla prima casa. Io sono sicuro che il governo Letta manterrà tutti i propri impegni, gli impegni programmatici sui quali ha ricevuto la fiducia dal Parlamento. Sono sicuro che il presidente Letta dirà una parola di chiarezza sull'IMU come sull'IVA, dalla parte degli italiani, non di questo o quel partito, solo dalla parte degli italiani. Non c'è alcun rischio di manovra, noi abbiamo i conti a posto e abbiamo tutte le risorse per far fronte agli impegni programmatici, lo ripeto, che non il sottoscritto, non il mio partito, ma che il Presidente del Consiglio Enrico Letta si è assunto davanti all'intero Parlamento e sui quali impegni programmatici ha ottenuto la fiducia. Sono sicuro che il Presidente Letta manterrà questi impegni. È puntiglio quello di ridurre e cancellare una tassa iniqua? Se è puntiglio, siamo assolutamente puntigliosi dalla parte degli italiani, dalla parte di tutte quelle famiglie, l'80% che abita nella casa di proprietà, siamo assolutamente puntigliosi dalla parte dei consumatori, siamo assolutamente puntigliosi dalla parte dei commercianti che non hanno gli occhi per piangere, siamo assolutamente puntigliosi e saremo sempre di più puntigliosi nell'attuare il programma di governo. E questo abbiamo sentito, era Brunetta del PDL che fa pressing sul governo, sul premier Enrico Letta. Perché? Perché ovviamente il PDL, una delle sue battaglie è proprio quella di abbattere la pressione fiscale, comunque diminuirla di molto, e abbiamo sentito c'è proprio un contrasto nel governo. Intanto i vostri sms, vi ricordo al 349-238-6666, maledetti a casa, ci scrive un radioascoltatore. Insomma, l'idea è abbastanza chiaro. E Zanonato, avevamo proprio bisogno di un imbecille nuovo, scrive un altro radioascoltatore. Dimezzare la spesa della politica, senatore a viti e privilegi, grazie. Non vi erano dubbi, sono solo dei buffoni, dice Paolo, solo promesse per consensi. Antonio da Como dice: ma questi buffoni hanno capito che devono tagliare la spesa pubblica per reperire i fondi? Questo è veramente il dubbio che ogni tanto viene. Intanto però c'è da segnalare che cosa fa il premier Enrico Letta. Manda un appello all'Unione Europea, cioè c'è un pressing del nostro premier proprio sul fronte del lavoro. Ha aperto il vertice europeo sull'occupazione con Francia, Spagna e Germania. Sentiamo quanto ha detto Letta. L'Europa non si affida solo ai ministri dei numeri, l'Europa non si affida solo ai ministri delle finanze, non è solo l'Ecofin il luogo nel quale si assumono le decisioni, ma l'Europa cerca invece con questo formato che appunto mette al lavoro insieme i ministri del lavoro e i ministri delle finanze, dell'economia e delle finanze, l'Europa cerca di affrontare il tema che è il tema più drammatico, cioè il tema della carenza di lavoro per i giovani, il tema di prospettiva, di futuro, la speranza soprattutto che si riescano a raggiungere alcuni risultati molto concreti. Non ci accontenteremo alla fine del mese di giugno nel vertice europeo di parole, di dichiarazioni, perché penso che semmai questo è uno dei problemi dell'Europa di oggi. E questo era il Premier Enrico Letta. Intanto ci sono proprio i vostri consigli ai politici. Ecco, per risanare il bilancio pubblico, un radioascoltatore dice: togliete il Senato, cioè, come a dire, è inutile. E in effetti questo bicameralismo perfetto pesa sulla spesa e praticamente rallenta il tutto, rallenta poi la macchina dello Stato. Questi non vogliono tagliare niente spesa pubblica, dice Vasco da Vicenza, sono tutti uguali, vergogna. Brunetta, il falso cretese, Marina da Milano. Io non ho ancora capito cosa ha fatto di concreto questo governo, a parte i proclami, tranne una discutibile sospensione dell'IMU. C'è poi Fulvio che ci dice: non mi spiace il nuovo nome del PDL, Forza Italia e Patriottico è da Gurale. Personalmente, visto che buttiamo fuori la Minetti, avrei aggiunto i gay. Allora, caro Fulvio, qui abbiamo poi una piccola polemica con il sindaco di Roma, Ignazio Marino, il neo sindaco Ignazio Marino, perché gli organizzatori del Roma Pride 2013 lo hanno invitato a partecipare alla manifestazione per i diritti degli omosessuali che si terrà domani pomeriggio nella capitale, ma Marino ha detto che era stanco e voleva trascorrere il fine settimana con la famiglia. Il comitato Roma Pride ha subito parlato di risposta irrispettosa e offensiva nei confronti di una comunità che si batte da anni. Dice: poteva pure venire con la famiglia, e infatti Marino poteva anche andare a passeggiare per il Roma Pride, che poi è molto divertente, molto colorato, con la sua famiglia. Allora, altro tema politico è il Movimento 5 Stelle. Riccardo Nuti, capogruppo alla Camera, denuncia la compravendita dei parlamentari 5 Stelle. Ricordiamo, i grillini si riuniranno lunedì per la possibile espulsione di Adele Gambaro dal gruppo del Senato. La Gambaro, ricordiamo, ha criticato Beppe Grillo, ma qual è l'orientamento del gruppo? È in corso un'epurazione? Allora noi l'abbiamo chiesto a un deputato 5 Stelle, Massimo Martini. No, è in generale, io, per come la vedo io, è un modo di porsi rispetto a quello della dinamica dell'assemblea, cioè se hai un problema lo risolvi tramite l'assemblea e tramite il tuo gruppo. Questo è come, diciamo così, si sta affrontando tutte le cose. Chiunque di noi può avere un'opinione o un sistema diverso da affrontare, quelle sono le cose decise dal gruppo. Certo rimanga in primis dentro l'assemblea, perché si debba risolvere, e lunedì si porterà questo e si vedrà cosa succede. Quindi in che cosa ha sbagliato la Gambaro? Il fatto che l'ha detto ai giornali e non l'ha detto dentro il gruppo? Beh, questo è evidente, l'ha detto anche lei, ha detto: non pensavo di avere questo risalto a livello mediatico. Quindi c'è da capire perché questa cosa è successa, né più né meno. Ma lei è per la linea della tolleranza o dell'intransigenza? Io sono per la linea della consapevolezza e della cognizione, cioè capire cosa è successo. Io ho provato anche a scrivere alla senatrice Gambaro, alla Adele, ancora non ho ricevuto risposta per email, spero che in assemblea se ne abbia una ricognizione più ampia, diciamo così. Ecco. Ma lei voterà a favore o contrario all'espulsione? Non ci ho pensato ancora, perché non ho informazioni dirette da chi ha detto certe cose. Ma c'è un problema di democrazia all'interno del gruppo 5 Stelle? No, perché altrimenti non si sarebbe lunedì a votare su questa cosa. E questo era Massimo Martini, 5 Stelle. Intanto un ultimo messaggio, quello lì di Nino. Brunetta, spieghi dove vuole trovare i soldi. Facile fare demagogia. È vero, e questo è sempre il problema, dove si troveranno i soldi per abbassare le tasse. Allora io vi ringrazio per la vostra attenzione e passo la parola da lunedì prossimo a Vincenzo Miglietta. Un saluto da Elisabetta Fiorito.